con l'autore e regista Johannes Bramante per parlare del suo spettacolo Vertenze politiche su una versione pornografica del mito di Pasifae. A Roma allo Spazio Diamante dall'1 al 3 febbraio 2019. Johannes, ben trovato. Bentrovate. Ci racconti di questo lavoro? È un lavoro che parte da una rielaborazione del mito antico, l'antico mito di Pasifae, che è la moglie del mitico re di Creta, Minosse, che si innamora per un capriccio degli dèi di un toro sacro, concupisce questo toro e concepirà insieme al toro un figlio che è il celeberrimo Minotauro. Questo è il mito antico, come ce lo racconta in 10.000 versi Ovidio nelle sue Metamorfosi. Ecco, nello spettacolo Vertenze politiche su una versione pornografica del mito di Pasifae, questo mito è trasposto nel contemporaneo, ai giorni nostri, ed è ambientato, piuttosto che su una mitica isola nel mare Egeo, in un'azienda italiana, un'azienda che si occupa di costruzioni, di cui Minosse è il capo e non il re. Quindi si ripetono tutti questi pattern, questi schemi del mito antico, però con una sostituzione del sistema di valori. Gli dèi diventano il denaro, il sesso, il capitalismo e il campo da battaglia è un ufficio in cui le persone si ammazzano a fondi di telefonate, di firme, di calci e dei contratti. Quindi in realtà abbiamo cambiato il linguaggio e detto e recitato, però abbiamo ripreso gli stessi valori, la stessa hybris, gli stessi ideali e dèi dell'antico. Del mito cosa ti aveva colpito al punto da pensarne a uno spettacolo attualizzato? L'assoluta scelleratezza dei personaggi che agiscono soltanto per assecondare delle passioni che sono tra l'altro però inflitte loro, innestate in loro da parte degli dèi, che è una cosa che detta così ci sembra molto lontana da noi e dai giorni nostri, però in realtà gli dèi continuano a infliggerci il loro castigo, siamo tutti schiavi di un assoluto capitalismo che è soltanto un'idea del denaro, del successo, del sesso, insomma continuiamo anche noi a adorare dei concetti che non esistono e per questi concetti compiamo ancora azioni sanguinolente. Quindi in qualche modo questo mito non è lontano, non è tanto lontano da noi. Quindi quello che mi aveva colpito nel mito appunto è questo vestito che nasconde in realtà delle cose umanissime e attualissime. L'idea del titolo? Il titolo più che altro è una sorta di sottotitolo. Il titolo spiega un po' quello che andremo a vedere. È una vertenza politica perché questi personaggi agiscono in nome di una polis, agiscono per una comunità, sfruttano questa comunità, sono cattivi con questa comunità, ma agiscono all'interno di una comunità. Il loro ufficio, l'effetto del loro denaro e dei loro contratti ha un effetto sulla popolazione, quindi è politico. Pornografico perché, proprio a vedere l'etimo della parola pornografico, è la grafia, il disegno della pornè che è la prostituta, quindi è un disegno di tre prostitute alla mercé del denaro, alla mercé del successo. E il mito di Pasifae è quello che spiegavo poc'anzi. Però quindi il titolo è una sorta di sottotitolo che chiarisce un po' quello che andremo a vedere. Quindi è lungo, ma porta con sé già qualcosa. Che percorso ha avuto e avrà lo spettacolo? È nato l'anno scorso a Roma e sta tornando fortunatamente a grande richiesta a Roma, allo Spazio Diamante quest'anno e spero che nella stagione prossima viaggerà un po' attraverso l'Italia. Quindi il percorso è ancora lungo, spero che lo si vedrà ancora per un bel po' di tempo sui palchi, anche perché sta avendo una buona risonanza. Queste situazioni del mito, a quanto pare, effettivamente toccano ancora e le toccano in maniera forte le corde del pubblico. Quindi immagino che i temi trattati, il linguaggio con cui sono trattati, ha la possibilità di esserci ancora un po', di restare ancora un po' live e in scena. In chiusura ci lasci i riferimenti internet per saperne di più, per seguirlo? Assolutamente. Sul sito internet dello Spazio Diamante ci sono tutte le informazioni circa lo spettacolo, le date, i biglietti, numeri da chiamare, indirizzi e per vedere un po' meglio quello che accade in sala prove, un po' di backstage, c'è la pagina Facebook della compagnia che produce lo spettacolo che è la Compagnia Coturno 15. E sulla pagina Facebook troverete foto, storie, riflessione di tutto il processo creativo. Ecco, allora parlaci anche un po' dell'esperienza della compagnia. La compagnia nasce 4 anni fa proprio con l'idea di riportare, riattualizzare, riportare in scena il mito in una chiave che sia attuale, che sia stringente. Infatti, per Scienze Politiche è il terzo spettacolo di una trilogia. La compagnia si formò nel 15 con uno spettacolo su Antigone, andò poi avanti con uno spettacolo su Alcestis, che hanno girato principalmente in Nord Italia, a Milano e in Emilia Romagna, ed è approdato adesso a Vertenze Politiche, sono una versione pornografica del mito di Pasita, per chiudere questa trilogia del mito. E da questo anche il nome della compagnia, il coturno è la scarpa che portavano gli attori nella tragedia antica nel 400 a.C. Il 15 è il numero del tacco che si darebbe oggi a una scarpa alta, e il numero della data, cioè la data in cui fu fondata la compagnia. Quindi Coturno 15 è un po' questa crasi tra l'antico e l'assolutamente contemporaneo. Ricordiamo allora lo spettacolo Vertenze Politiche, su una versione pornografica del mito di Pasifae, a Roma allo Spazio Diamante dal 1 al 3 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Johannes Bramante. Un abbraccio, a voi. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Ciao. Molto presto, ciao.